Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ancora tiene banco la vicenda Electrolux, l'incontro iniziato poco dopo le 15 al Ministero dello Sviluppo Economico con il ministro Zanonato, i vertici di Electrolux e i presidenti di Lombardia, quindi Maroni, Veneto, Zaia, Friuli Venezia Giulia, Serracchiani, Emilia Romagna, Errani, cioè le regioni, le cinque regioni dove Electrolux ha i suoi stabilimenti, quattro regioni, scusatemi. Ancora, per quello che riguarda le varie dichiarazioni, Zanonato prima di iniziare l'incontro ha detto che l'impegno è che la produzione resti in Italia, possibili accordi di solidarietà. Dopodiché questo si lega a nostro avviso anche con un'altra vicenda di carattere industriale, il nuovo volto della Fiat, con le polemiche che ha anche suscitato il PD, soprattutto molto critico, dice la Fiat non è più italiana. In realtà il nuovo, oggi si è tenuto uno storico consiglio di amministrazione di Fiat, da cui sono emersi la nuova sede che avrà il gruppo, la quotazione, il nome finale, i conti. Allora, nell'ordine, Fiat Chrysler Automobiles è il nuovo nome del gruppo, formato appunto dalle due case, Fiat e Chrysler. La sede legale sarà in Olanda, quella fiscale in Gran Bretagna, e il titolo sarà quotato a Milano e New York. Le sedi produttive, immaginiamo, resteranno appunto sia in Italia che negli Stati Uniti. Nel logo del gruppo Fiat Chrysler Automobiles vi sarà l'acronimo FCA. Quindi, da quello che capiamo, non ci... FCA, vabbè, vedo già le battute in rete, ma dico, da quello che capiamo non ci sarà più il logo Fiat sulle automobili, ma di questo chiederemo anche conferma. Dovrebbe essere, cioè, l'acronimo FCA. Il nuovo gruppo dovrebbe essere al settimo posto dei costruttori d'auto al mondo, con 4,4 milioni di vetture vendute, 158 stabilimenti, stiamo parlando di Fiat Chrysler, 215.000 dipendenti, brand, quelli sì resteranno, sono 16 i marchi, tra i partner vi ricordo che c'è Tata in India, GAC in Cina, Mazda in Giappone, con cui sta sviluppando la nuova Alfa Romeo Spider, e PSA, quindi Peugeot Citroën, per i veicoli commerciali. Appunto, il tema è di carattere storico oltre che di piano industriale, lo affronteremo sul doppio fronte, perché tra Electrolux e Fiat appunto qui cambiano con Fiat. Io non sono dell'idea di dire addio la Fiat se ne va dall'Italia, sicuramente cambia pelle. A me interessa più sapere, voglio dire, che la sede sia da una parte o dall'altra, a me interessa più sapere sostanzialmente se verranno confermati gli investimenti del piano Fabbrica Italia, del piano Fiat, i famosi investimenti proposti a suo tempo. Quello mi interessa, cioè sapere quale sarà la quota italiana di questo nuovo gruppo, che poi un nuovo gruppo sia internazionale, vabbè, ma ben venga anche, se serve, visto che ne resteranno solo pochi, modello Highlander, di gruppi automobilistici in questo paese e in questo pianeta. Meno 0,56% Milano, meno 0,65% Parigi, meno 0,70% Londra, siamo quindi alle borse, e meno 0,70% anche Francoforte. Come reagisce il titolo Fiat? Male, meno 5,24%, ma lì il marchio c'entra poco. E male anche Mediaset, meno 3,64%. Ci occuperemo anche, oltre che di Electrolux e di Fiat, anche delle famose rivalutazione delle quote nella Banca d'Italia, su cui si sta bloccando tutto. Se entro mezzanotte non passa il decreto, ci ribecchiamo lì, forse c'è il rischio di ribeccarsi la seconda rata dell'IMU, perché qui, dentro questo decreto, dentro questa rivalutazione delle quote che le banche hanno in Banca d'Italia, c'erano anche le risorse per evitare la seconda rata dell'IMU. Dicevo, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. dire che la Fiat non pagherà più tasse in Italia? Beh, insomma, la sede fiscale in Gran Bretagna, dove c'è un vantaggio fiscale, però attenzione su questo, fermo restando che poi alcune tasse, i contributi li paga in Italia, bisogna capirsi, se siamo in Europa ci sono tante imprese che tengono poi sedi fiscali altrove. Allora il problema è capire come si rende più competitivo il nostro paese anche con alcuni vantaggi fiscali per le imprese che operano e per il costo dei dipendenti, e qui si legano le vicende Electrolux in qualche modo e Fiat, perché poi sappiamo benissimo che quello che costa un dipendente alla multinazionale svedese Electrolux quando dipendente italiano solo in minima parte va nella busta paga come costo differenziale e resta tra i contributi IRAP e quant'altro. Ecco perché bisogna chiedere all'Europa maggiore flessibilità, ma tagliare la spesa pubblica e tutto quello che tagli buttarlo nella riduzione del cuneo fiscale. Continuate a chiedere qual è la ricetta di questo programma. La ricetta è una sola: spendere meno e meglio per la pubblica amministrazione, ridurre le tasse in busta paga, permettendo alle nostre imprese di essere più competitive, agli investitori di essere più intenzionati ad arrivare in Italia, riformando anche la giustizia civile, che ne dicono i magistrati, che ogni tanto la casta la fanno pure loro. E terzo aspetto, permetterebbe anche di aumentare un po' i consumi, perché il problema, come scrive molto bene oggi Dario Di Vico sul Corriere della Sera, è che le imprese italiane che esportano pagano bene i dipendenti, quelle che devono vendere sul mercato interno, e anche il mondo del bianco viene venduto sul mercato interno, lavatrici e lavastoviglie, sono quasi alla frutta, perché qui non consuma più nessuno. Ecco la nostra banalissima ricetta: spendi meno per la pubblica amministrazione, razionalizzi le spese. È inutile che mi diciate ogni volta, ma se tagli 24.000 forestali in Sicilia poi sono 24.000 disoccupati. Liberi risorse per fare altro, per fare impresa vera, e dai anche qualche vantaggio in meno alle banche, obbligandole a prestare soldi, obbligandole come moral suasion, ci mancherebbe, a prestare soldi un po' di più e a smetterla di fare come mia nonna, che si comprava solo i bot come investimento. Vabbè, stavo ridendo perché Fiat Chrysler FCA FK, bisogna stare attenti alle vocali in mezzo, ma è FK. Non c'è nessuna vocale in mezzo. Andiamo avanti. Ferragamo meno 3, 34%, Jux meno 3, Buzzunice meno 2,70, Prismian meno 2,60, Exor meno 2,40, Autogrill meno 2,16, Campari meno 1,80 come Enel, A2A meno 1,70, CNH Industrial meno 1,60, Unipolsai meno 1,5 come Ansaldo e STS. Pirelli più 4,73%, Saipem più 3,14%, Ubibank più 3%, oggi sono in recupero le popolari, così rispondo anche un sms, dicevo Ubibank più 3%, Mediobanca più 1,70%, Pop Milano più 1,40%, Pop Emilia Romagna più 1,14%, bene oggi anche Luxottica dopo i conti di ieri, ottimi, più 1,40%. Bravo Andrea Guerra, che gestisce, giovane, ma non tanto perché è giovane, perché è bravo, e continua a aumentare i conti del gruppo Luxottica, mantenendo la testa in Italia, oltre che la produzione. Certo, lui fa occhiali, però la testa è tutta italiana, è lì che dobbiamo puntare. E qui oggi si sta riaprendo la voliera, eh? Perché? Lo dico perché noi siamo da sempre sostenitori che non possiamo concorrere con la Cina, che e le nostre imprese lo hanno fatto, basta vedere i dati sulle esportazioni, alzare la fascia e di gamma in cui vai a vendere, in tutto, sia nella meccanica che nella moda. Però non abbiamo bisogno di lezioni, soprattutto da chi ci rompe sempre le scatole su questo. Perché lo dico? Perché il quotidiano economico tedesco Handelsblatt, che è un po' il Sole 24 Ore, vende meno copie, è un po' il Sole 24 Ore tedesco, oggi con questi soliti titoli che piacciono tanto alla Germania, no? Titolo Arrivederci Italia, è il commento sulla Fiat, dice che in Italia è scoppiato il panico dopo la scelta della sede legale, la quotazione. Allora Handelsblatt, intanto facci sapere come va l'inchiesta sui dati truccati dalla Volkswagen, che corrompeva l'automobile club tedesco, e invece che 3.400 Volkswagen nelle preferenze erano 34.000. eh? Auf Wiedersehen Deutschland, ti rispondo io, ma che stai a dire? Dopodiché la ringraziamo di sapere che ci dica che dobbiamo andare sulla fascia alta, però visto che lei scrive arrivederci Italia, io a Landesblatt dico vedi Napoli. Napoli, andate a vedere Napoli, vedete Napoli. Vedi Napoli, com'era quella cosa? Vedi Napoli? Vedi Napoli? Vabbè, invece uno smacco per i tedeschi arriva dalla Toyota, che oggi si conferma numero uno al mondo, 10 milioni di veicoli prodotti nel 2013, produzione del gruppo a 10 milioni e 110 mila, lì è sempre una gara con la Volkswagen. Andiamo avanti con altre notizie, invece, partendo come sempre anche dall'estero, e allora... Barack Obama ha confermato quanto ieri avevamo già anticipato, l'America non resterà immobile, né tantomeno io, bisogna sostenere le famiglie americane, il 2014 sarà l'anno per la svolta, e ha annunciato appunto il decreto per alzare il prossimo, dal prossimo anno il salario orario minimo per i nuovi contratti dei lavoratori federali a $10.10. Tonight this chamber speaks with one voice to the people we represent. Stasera questa Camera parla con una sola voce alla gente che rappresentiamo, la vostra voce, di voi cittadini che avete reso più forte lo Stato dell'Unione. Ecco i risultati dei vostri sforzi. Il tasso di disoccupazione più basso degli ultimi 5 anni, un mercato immobiliare in risalita, un'industria manifatturiera che crea nuovi posti di lavoro per la prima volta dal 1990. Più petrolio prodotto nei nostri confini rispetto a quello che compriamo dal resto del mondo. Ed è la prima volta che accade da quasi 20 anni. Il nostro deficit è ridotto di oltre la metà. Ed è la prima volta in più di un decennio. I leader industriali di tutto il mondo hanno dichiarato che la Cina non è più il primo posto al mondo dove investire. Il primo posto dove investire è l'America. Ecco perché credo che questo possa essere un anno di svolta per l'America. Dopo 5 anni di sforzi, di determinazione e fatica, gli Stati Uniti affrontano il XXI secolo in una posizione più forte di qualsiasi altra nazione sulla Terra. Oggi il salario minimo federale è inferiore del 20% rispetto all'era Ronald Reagan. È stato messo a punto un disegno di legge per risolvere il problema, fissando il salario minimo a $10.10. Questo aiuterà le famiglie, darà più clienti alle imprese, con più denaro da spendere. Questa operazione non comporta alcuna implicazione burocratica, quindi uniamoci al resto del paese. Diciamo sì, diamo un aumento all'America. So join the rest of the country. Say yes. Give America a raise. Ancora il PIL russo, confermato un rallentamento più alto delle attese nel 2013, più 1,4%, il governo di Mosca dice una crescita è deludente, continua tra l'altro il rallentamento, pesa la recessione dei partner economici, quindi probabilmente soprattutto i consumi di energia di parte dell'Europa. Ancora in Turchia la lira, quella turca, per ora e spero per sempre, come sapete la mia posizione è netta su questo, l'unica lira che mi piace è quella turca. La lira è in recupero dopo il rialzo dei tassi di interesse deciso dalla banca centrale turca, è a quota 20,17 sul dollaro e 20,96 sull'euro. Cos'è successo nella nottata? La banca centrale turca ha portato contro il parere del premier Erdogan, che appare sempre più in difficoltà adesso anche con la sua banca centrale, ha portato il tasso di interesse overnight dal 7,75%, il tasso di interesse turco, al 12%, cioè immaginatevi quasi 4, quasi 5 punti di rialzo, e il repo dal 4,5% al 10%, perché si alzano i tassi di interesse? Si alzano per tanti motivi, quando c'è l'inflazione li alzi così la gente spende meno. In questo caso li hanno alzati per rendere più attraente la lira turca, che continuava a perdere e a svalutare, perché è chiaro che più una moneta, più alto è il tasso di interesse su una moneta, più rende comprare ovviamente quella moneta. E anche in Sudafrica, dopo Brasile e Turchia, questo è il problema un po' dei BRICS, in questi BRICS più la Turchia, aumenta i tassi di interesse per sostenere la sua valuta, al 5,5%. È pazzesco, questi paesi in via di sviluppo vogliono una valuta forte, invece noi, cioè noi, una parte così dell'opinione pubblica e di pseudoeconomisti, vati e predicatori vorrebbe una lira debole. Boh. Loro sono terrorizzati, e se lo spiego a chi continua a sostenere che con la lira vivremo tutti meglio, che scomparirebbero i nostri problemi, perché con il tapering americano, cioè col fatto che la banca centrale americana, la Fed, andrà a stampare sempre meno dollari, diciamola così, e ha già ridotto di 10 miliardi al mese, ridurrà di altri 10 miliardi al mese, portandoli a 65 miliardi. Cosa succede? Questi dollari stampati, questa liquidità veniva investita nelle valute emergenti. Nel momento in cui viene meno questa liquidità, la si riporta nelle valute un po' più forti, più tranquille, c'è meno da spendere, con la conseguenza che calano i valori delle valute emergenti, appunto lira turca, rand sudafricano e valuta brasiliana, e loro ci tengono invece a non pagare troppo di energia e di importazioni loro. Poi c'è invece qualcuno qui che dice con la lira, con la liretta, wow. Eccolo qua, poi arriva il genio: solo la decrescita potrà salvarvi e salvarci. Non si preoccupi, siamo già in decrescita. Vediamo se non mi sembra che tutti siamo più contenti con questa decrescita a cui stiamo assistendo. Non lo chieda un giovane sui 25 anni, a un cassa integrato, a un dipendente che non vede aumentare lo stipendio, lo chieda ai dipendenti di Electrolux se la decrescita potrà salvare. Salva chi vive in campagna, legge tanti libri e, diciamo, ruba le braccia a qualcos'altro, alla campagna, appunto. Andiamo avanti. Angela Merkel dichiara guerra alla crisi. La crisi non dovrà ripetersi. Siamo tutti d'accordo, vorremmo capire come, e soprattutto come evitare che la Germania, con le sue politiche, dia un po' di vitamina in più alla crisi, come è successo tra il 2010, 2009 e 2011. La politica ha promesso alla gente, dice Angela Merkel, che una devastante crisi finanziaria mondiale come quella del 2008-2009 non dovrà ripetersi. Tutti d'accordo stavolta. E in Germania la fiducia dei consumatori tedeschi sale ai massimi dal 2007. È l'indice GFK. Non J, GFK. Allora, e adesso arriviamo al Consiglio d'Europa, che dice che in Italia le pensioni minime sono inadeguate, vi sarà un rapporto sulle violazioni della Carta per i diritti sociali, l'Italia non garantisce sicurezza un'appropriata sicurezza sul lavoro e manca un sistema adeguato di prevenzione dei rischi. È giusto ascoltare il Consiglio europeo su questo, che dice che l'Italia non ha rispettato il diritto dei lavoratori alla sicurezza e l'igiene tra il 2008 e il 2011. E tra l'altro sulla povertà il Consiglio d'Europa boccia l'Italia, dicendo che le misure adottate per combattere l'esclusione sociale sono del tutto inadeguate. Ma il Premier Letta, devo dire, porta acqua al suo mulino. È andato a Bruxelles e ha ripetuto quello che aveva già detto a Davos, se non ricordo male. Il 2014 è l'anno, per il primo anno senza tempesta finanziaria. Allora, io il gufo l'ho già mandato. Letta, qui siamo scaramantici, non lo dica troppo, perché se continuiamo a dire il primo anno è appena iniziato, stiamo zitti, tranquilli, che se tutto va bene sarà il primo anno senza tempesta finanziaria con una modesta crescita economica. Arriviamo qui con un punto di differenza fondamentale rispetto agli anni scorsi. In questi ultimi 3 anni l'Italia ha sempre cominciato l'anno sotto la tempesta dell'emergenza finanziaria. Quest'anno l'anno comincia non con l'emergenza finanziaria, ma con le opportunità di poter fare scelte di medio e lungo termine. Queste scelte le vogliamo fare per rendere il nostro paese più competitivo e per rendere il nostro paese più protagonista in Europa in quest'anno in cui il semestre sarà il secondo con l'Italia alla guida. Ho presentato le scelte che l'Italia ha fatto in questi mesi e le scelte che l'Italia ha intenzione di fare nei prossimi mesi e in quest'anno. Sono scelte che confermano un forte impegno europeo ed europeista, ma sono scelte che confermano soprattutto la volontà di far riprendere all'Italia la strada della crescita. E gli obiettivi che ci siamo dati per questo anno sono obiettivi che sono raggiungibili. Il primo obiettivo è avere finalmente un anno di crescita, un 1% di crescita quest'anno, un 2% di crescita l'anno prossimo. È possibile perché i dati, che ancora non sono pubblici ma che abbiamo a nostra disposizione, ci dicono che l'ultimo trimestre dell'anno scorso l'Italia ha finalmente avuto un dato di crescita positivo, e questo ci dà buona speranza di credere che il 2014 sarà un anno di crescita con le cifre e con quell'1% almeno che noi vogliamo raggiungere. Sull'1% io mi auguro che Letta abbia ragione, a noi risulta 0,4-0,6 come stime dei vari organismi. Comunque, poi ascolteremo nella seconda ora invece anche la parte sulla crescita, del lavoro e disoccupazione. Vi prego, adesso la puntata vuole mantenere una linea il più serio possibile. La nuova Fiat Chrysler si chiamerà come acronimo FCA, FCA. È inutile che mi scriviate che bella la tua FCA, me la fai provare dopo cena, come... Dai, siamo seri, si chiama FCA, si chiamerà FCA in americano, FCA. Bella la tua FCA, ho capito, prima si chiamava Fiat, ma i vari marchi resteranno. È mai possibile andare avanti così? Dai, andiamo seri, allora. A proposito di FCA, volevo dire una cosa al presidente della regione Abruzzo. Guardi, adesso domani andremo avanti con a raccontare altre spese, e una cosa serissima la voglio dire: nessuno vuole entrare, ha chiesto scusa per essersi intrattenuto con una donna che non era sua moglie. Guardi che noi non sopportiamo l'intrusione nella privacy, ci mancherebbe. Il punto sa qual è? Non è entrare nella sua privacy, lei ha diritto poi di gestire la sua vita privata come ritiene. Il problema è che qui non c'è il grande fratello, però l'unica cosa che si chiede, lo dico in maniera molto seria, qualunque attività privata uno voglia intrattenere nella sua vita, non la caricare a noi. Cioè, voglio dire, i problemi familiari uno se li risolve, se li riesce a risolvere in casa, non porta però il conto dell'albergo a carico dei contribuenti. Questo è l'unico motivo per cui ce ne occupiamo, non perché siamo diventati improvvisamente alla Orwell o alla Robespierre. Uno faccia quello che vuole, siamo assolutamente laici e tolleranti, sono problemi privati, lo risolverà con sua moglie, e così come anche non vedere che poi la stessa persona che ha dormito con lei ha vinto pochi mesi dopo un incarico, un 22 in concorso, e lei è quella che ha vinto un importante incarico pubblico, perché poi il sospetto, ecco, il sospetto lì viene. E nel mondo del privato esistono anche policy interne molto rigorose su questo, Basta con l'acronimo dell'FCA. Vediamo se riesco a tornare serio anch'io. Qui c'è un tema serissimo invece che riguarda le quote delle banche, della Banca d'Italia. Perché? Perché scade oggi a mezzanotte il termine per convertire in legge il decreto IMU Banca Italia. In linea del tutto teorica, senza ulteriori interventi del governo, per esempio un nuovo decreto ad hoc, se entro mezzanotte non viene convertito il decreto, dovremmo, in linea teorica, pagare a questo punto la seconda rata dell'IMU, perché è un'ipotesi tra l'altro che creerebbe un po' di problemi per la mini IMU ormai versata da 2000 comuni, proprio per compensare parte del gettito della seconda rata dell'IMU che non arrivava, ma altra parte arrivava dal decreto. Ora mi auguro che questo non avvenga. Perché tutto è bloccato? È bloccato non per l'IMU, ma per l'ostruzionismo, su cui non è che siamo né contrari né favorevoli, lo cito solo come dato, del Movimento 5 Stelle, che sta rallentando i lavori. Perché fa ostruzionismo il Movimento 5 Stelle? Perché ritiene che il governo abbia fatto un regalo vero e proprio nella vicenda della rivalutazione delle quote della Banca d'Italia posseduta dalle banche italiane. Gli azionisti della Banca d'Italia infatti sono le banche italiane. 17:39 minuti. Scusatemi, adesso io vi prego, devo condurre fino alle 18:30. Se continuate a scrivermi sull'AFCA, io non vado avanti. Inutile che scriviate, mi hanno detto che in Polonia l'AFCA costa molto meno, è vero. Allora, è che Berlusconi ne compra tante di FCA. Allora, si chiama FCA, FCA è un nuovo acronimo della Fiat, per cui Fiat Chrysler Automobiles, per cui poi c'è anche chi contesta che io sorrido ogni tanto in questo programma. E cosa devo fare con le notizie che diamo? Non so, prendere un manganello e diciamo utilizzarlo su parti riproduttive del corpo umano, ma cosa devo fare? Almeno ogni tanto sorridiamo, dopodiché basta con la FCA, adesso parliamo. E comunque, visto che siamo italiani, viva sempre la FCA. Allora, professor Angelo Baglioni, che insegna economia e politica alla Cattolica di Milano, buonasera. Buonasera. Non, di solito è un programma serio questo, non si, è che gli ascoltatori ironizzano sul nuovo acronimo della Fiat. Allora, raccontavo prima di cosa sta capitando, cioè rischia in via teorica, se non passa la conversione del decreto sull'IMU, che si chiama IMU Banca Italia, rischiamo di dover pagare la seconda rata dell'IMU. Ora, il decreto è bloccato dal 5 Stelle non sull'IMU ma sulle quote in Banca Italia. Cerco, vediamo se riesco a far capire tutti. La Banca d'Italia ha degli azionisti che sono le banche, sostanzialmente. Sono due banche, Intesa San Paolo al 30%, Unicredit al 22%. Il terzo azionista sono le assicurazioni generali, che hanno un 7%. Poi l'IPS al 5% e l'INEL allo 0,66%. Allora, le quote della Banca d'Italia erano ferme da decenni, dal 1936, tempi di Mussolini, in cui venne deciso che il capitale simbolico della Banca d'Italia era di 300.000 lire, diventate 156.000 euro. Chiaro è che nel corso degli anni con 300.000 euro ti compri forse un appartamento e non può essere il capitale della Banca d'Italia. Il capitale viene rivalutato dal governo e lo porta a 7,5 miliardi. Questa è un'operazione che conviene anche allo Stato, perché la valutazione l'ha fatta una commissione di esperti che ha detto, insomma, il capitale della Banca d'Italia oscilla tra i 5 e i 7,5 miliardi e viene portato nella parte più alta. E perché questo conviene allo Stato? Perché in seguito alla rivalutazione il valore di una singola azione passa da circa 50 centesimi di euro a 25.000 euro. Quindi si moltiplica il valore delle quote detenute dalle banche nella Banca d'Italia, e questo dovrebbe, se ho ben capito, generare un incasso una tantum per il fisco da 1,2 miliardi di euro dal normale prelievo che interessa alle rivalutazioni patrimoniali. Questo 1,2 miliardi di euro serviva per coprire una parte della seconda rata dell'IMU. Ho spiegato bene, professore? Mi corregga se ci siamo su questo. Sì, è tutto. Ecco, esatto. Perché il 5 Stelle e qual è, e anche molti ascoltatori si bloccano a questo punto? Che cosa è successo? Ma credo che l'opposizione del Movimento 5 Stelle si riferisca al fatto che questa rivalutazione delle quote configurerebbe un cosiddetto regalo alle banche. Io credo che si sia proceduto in una maniera un po' incauta da parte del governo in questo caso, ma non per quello che dicono gli esponenti del Movimento 5 Stelle, ma per il fatto che una riforma di questa portata della proprietà, della governance, dell'assetto proprietario della Banca Centrale non si fa per decreto legge e non si fa abbinandola a una necessità di cassa immediata come era quella che è sorta sul finire dello scorso anno per finanziare la soppressione della seconda rata dell'IMU. Cioè, questa è una riforma importante dell'assetto della Banca Centrale, comporta degli aspetti molto delicati e anche tecnici, non so quanto poi vogliamo entrarci, sicuramente andava fatta in un modo diverso, avviando un dibattito parlamentare e soprattutto slegandola da questa necessità immediata di fare cassa, perché ovviamente si mischiano due cose, l'assetto della Banca d'Italia e il gettito fiscale immediato, che non dovrebbero essere invece mischiate tra di loro. Ho capito quello che dice lei, cioè non andava legato a un gettito immediato di cassa, se no, certo. Però mi scusi, io ho capito che il motivo perché aumenteranno i dividendi corrisposti dagli attuali 70 milioni a 420 milioni. Arriverà questo extra gettito per lo Stato, una tantum, appunto, da 1,2 miliardi, però il motivo che ha fatto arrabbiare i 5 Stelle, se ho ben capito, è che il decreto prevede che nessun azionista possa avere più del 3%. Questo significa che i grossi azionisti, come Intesa, Unicredit Generali, dovranno vendere la loro quota sul mercato, è una quota importante. Però, diversamente da quanto previsto inizialmente, gli acquirenti possono essere solo italiani. Sì. Vabbè, questo si può capire, insomma, uno straniero che possiede la Banca d'Italia, vabbè, non è il massimo della vita. In assenza però di altri compratori, la Banca d'Italia potrà acquisire temporaneamente le quote. Sì. E quindi, se ho ben capito, i 5 Stelle dicono: attenzione, in questo modo date alle banche un regalo, perché si libereranno della quota eccedente, il 27% o il 19%, a seconda che tu sia San Paolo o Unicredit, o il 4% se tu sei Generali. Gliele comprerà la Banca d'Italia, e quindi state facendo un regalo alla Banca d'Italia. È questo il problema politico? Ma diciamo, per essere esatti, che il decreto prevede effettivamente che ci sia un periodo transitorio, se ricordo bene, di 3 anni, durante il quale questi grossi azionisti, sono essenzialmente 2 poi, come ricordava lei, Intesa e Unicredit, devono scendere sotto questa soglia del 3%. Per agevolare questo processo, il decreto prevede che possa essere la Banca d'Italia stessa ad acquistare temporaneamente queste quote in eccesso, queste eccedenze, e poi a rivenderle sul mercato. Naturalmente la Banca d'Italia non fa un regalo, nel senso che ovviamente a fronte dei soldi che eventualmente decidesse di spendere per acquistare le proprie quote, naturalmente a fronte di questo acquista le sue quote di proprietà, però è anche vero che si accolerebbe un rischio, diciamo. Lei ha fatto un calcolo, potrebbe costare alla Banca d'Italia comprare le quote eccedenti delle banche private fino a 4,2 miliardi? Sì, esattamente, in un articolo sulla Voce abbiamo provato a fare qualche calcolo per quale potrebbe essere l'esborso massimo per la Banca d'Italia. Intendiamoci, questa operazione è a discrezione della Banca d'Italia stessa, cioè la Banca d'Italia non è obbligata a fare queste operazioni, è autorizzata. Dopodiché sarà il Consiglio Superiore della Banca d'Italia che deciderà di fare queste operazioni. Potrebbe non farne del tutto, o potrebbe decidere di farle. Se le facesse, il prezzo massimo possibile è dato dal valore nominale delle quote. E quindi, andando a calcolare il valore nominale di queste quote, sempre in eccesso del 3%, e sommando tutte quelle, appunto, di Intesa, Unicredit, sì, certo, e le altre, viene fuori questa cifra di 4 miliardi. Se fosse così, però, professore, mi scusi, hanno ragione anche i 5 Stelle a dire che in parte è un regalo alle banche. Cioè, se tu sei obbligato a vendere come banca, però sei obbligato a vendere un italiano, e se non c'è nessun italiano che compra la quota che tu hai di Banca d'Italia, se la può ricomprare la Banca d'Italia stessa, seppur, se ho ben capito, temporaneamente, è un regalo. Cioè, io vorrei, come se io dovessi vendere un appartamento, e se non riesco a trovare un compratore, se lo compra, diciamo, il costruttore iniziale. Ma insomma, La Banca d'Italia, ripeto, non è obbligata a fare queste operazioni, anche se le banche non riuscissero a vendere nel periodo dei 3 anni queste quote, cioè eventualmente rimanessero queste quote in eccesso rispetto al 3%, dopo i 3 anni verranno semplicemente sterilizzate, tra virgolette, cioè non avranno più diritto di voto e diritto ai dividendi passati questi 3 anni. Quindi qui, come dire, si inserisce una possibilità per la Banca d'Italia di fare queste operazioni. A mio modo di vedere, la cosa negativa è che se la Banca d'Italia farà, insomma, in futuro queste operazioni e le farà a questo prezzo massimo, si accolla un rischio, perché ovviamente sarà la Banca d'Italia stessa che dovrà poi rivenderle sul mercato, e c'è il rischio che poi sia costretta a rivenderle a un prezzo più basso. E siccome la Banca d'Italia, comunque, di tutti noi, allora mi dica in 30 secondi quale sarebbe stata l'opzione migliore sulle quote delle banche in Banca d'Italia. Ma l'opzione migliore sarebbe stata probabilmente lasciare che imporre, diciamo, un tetto, 3 o 5. E lasciare che trovassero dei compratori. Lasciare che loro trovassero dei compratori a prezzi stabiliti dal mercato. tanto più che con questa clausola appunto della sterilizzazione che dicevo prima, le banche hanno tutto l'interesse a trovare acquirenti sul mercato, perché dopo i 3 anni non ricevono più dividendi su queste quote. Quindi si poteva benissimo effettivamente lasciare che le banche si trovassero acquirenti sul mercato, certo, al prezzo stabilito dal mercato per poterle acquistare. Guardi, da come la capisco io, poi sono pronto a correggermi, a chiedere venia, hanno ragione i 5 Stelle a dire che è un regalo alle banche. Insomma, in tutto questo racconto emerge che c'è una corsia preferenziale per un soggetto privato, perché fino a prova contraria la banca è un soggetto privato, che deve cedere una sua quota per legge dentro la Banca d'Italia, e se non riesce a trovare un compratore, non succede come avviene a tutto il mondo normale dei privati, che abbassi l'offerta, ma riesce comunque a le deve ricomprare il soggetto che lui partecipa, cioè la Banca d'Italia, pagando un esborso fino a 4 miliardi di euro. A me sembra un regalo alle banche, quindi nessun problema a dire che ha ragione anche il 5 Stelle. Vorrei sentire anche il PD, Forza Italia e altri partiti del governo che cosa ne pensano, anche il neo PD di Renzi, se ha idee al riguardo. Alfano, Toti, Renzi, fateci sentire, diteci anche Letta soprattutto. Abbiamo capito che è il primo anno che non parte con la sfiga. L'hai detto a Davos, l'hai detto a Bruxelles, l'hai detto oggi. Mo cambiamo anche registro. Ci dica che cosa pensa delle quote e delle banche d'Italia, delle banche della Banca d'Italia, perché su questo obiettivamente non si capisce perché fare un regalo alle banche. Me ne frega nulla se mi attaccheranno di nuovo. Allora, c'è chi dice che non si deve fare ironia, ma senta, l'ironia è quello che ci salva per raccontare anche sto paese, perché sennò dove andiamo? E c'è chi dice che sono un super mona ignorante. Guardi, vorrei capire se sono più la prima o la seconda. Intanto però il traffico. Amo volare e so quanto contano controllo e fiducia durante una turbolenza. Per questo mi fido di Barclays, che sa aiutarmi a tenere la giusta rotta in caso di imprevisti per realizzare le mie ambizioni. E da oggi mi rimborsa l'imposta di bollo sul deposito titoli fino alla fine del 2015 e fino a 3.000 euro. Scopri i dettagli in filiale o sul mio traguardo.it. Barclays, realizza le tue ambizioni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al 34/2014, soggetta a limitazioni. Condizioni, fogli e documenti informativi su ilmiotraguardo.it. Progetto Fuoco, Fiera di Verona 19-23 febbraio. Progettofuoco.it vi presenta Strade in diretta. In atto forti nevicate sull'Appennino Ligure, traffico a tratti fermo tra Ceva e Savona, sulla 6 Torino-Savona e sulla statale 28 bis del Colle di Nava. Mezzi spargisale in azione sulla 26 dei Trafori, i camion non possono percorrere l'autostrada 26 tra Voltri e la diramazione Pradosa-Bettole, vengono fermati già sulla 10, la Genova Ventimiglia, Voltri e Arenzano. Bisogna avere le catene a bordo o gli pneumatici da neve montati. Neve fino in pianura in Piemonte, nevischio sugli Appennini tosco-emiliani e prevista neve sulla pianura lombarda sul versante occidentale. Un mezzo in avaria condiziona la circolazione alle porte di Genova. Ci sono code sulla 10 tra il bivio per la 7 Milano-Genova e lo svincolo per l'aeroporto. Sono invece per lavori le code verso Roma sulla 24 tra Ponte di Nona e Sette Camini. Torniamo tra mezz'ora. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Lo so, la Banca d'Italia non ha l'obbligo, può comprare, ma vogliamo scommettere su come andrà a finire in questa versione, che le banche daranno temporaneamente le loro quote in eccesso, in eccedenza alla Banca d'Italia, e tra l'altro è anche la Banca Centrale Europea, e quindi Mario Draghi che si è lamentato per la mancato chiarimento, indicazione della durata del processo stesso, del possesso, cioè quanto tempo la deve tenere la Banca d'Italia poi. Vabbè, la borsa. Ceo Condina, Radio Colli sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, meno 0,60% Milano, anche Parigi fa 0,60, Francoforte meno 0,70, Londra meno 0,40, l'America meno 0,56%. Andiamo su Fiat, la lasciamo dopo, abbiamo tutto uno spazio dedicato a Fiat, concentriamoci su Pirelli, più 7,21%. E Saipem più 3,5. Invece abbiamo visto Mediaset meno 3,70, Jux meno 3%, devo dire positiva anche Telecom più 0,70. Vai. Pirelli è un po' il caso del giorno, un caso che è maturato proprio nelle ultime battute della seduta, infatti diciamo un sito del Financial Times, Financial Times Alphaville, ha rilanciato quella che era stata l'ipotesi formulata da Repubblica a inizio gennaio, cioè il fatto che il fondo di private equity Goldman Sachs insieme a Marco Tronchetti Provera possano di fatto fare un'offerta per tutta la società, quindi un'OPA, e portarla via dal mercato. Sicuramente è uno scenario importante, suggestivo per Piazza Affari, visto che il titolo è balzato del 7,2%. Per quanto riguarda Saipem, un'altra performance positiva, 3,5% a fronte del fatto che il gasdotto South Stream negli ultimi giorni ha concluso importanti accordi, tra cui l'assegnazione di una commessa in cui rientrerà anche la stessa Saipem. Tu parlavi poi di titoli in fondo al listino, al di là di Fiat c'è Mediaset che per il 3,7%, qui secondo quanto annunciato da Catricalà lunedì ci sarà il via alla gara per le nuove frequenze TV, gara da cui sarà esclusa Mediaset, giù anche il lusso con Jux e Ferragamo che continuano a perdere colpi in borsa, giù del 3%. Dopo il GR invece parliamo degli altri titoli, di Fiat, che oggi ha perso il 4,11% e che si chiamerà FCA o FCA. Parliamo dopo. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Ho ancora 30 secondi, come perdere? Mi dici Buzzi, Unicem? È su Buzzi il mercato un po' pessimista sui margini, 2014-2015 sono state tagliate le stime sulla redditività e quindi il titolo è insomma tra i peggiori insieme alla moda e ai finanziari. Alle 18 e 9 minuti riprende Focus Economia, chiudiamo la pagina di borsa, dicevamo di Mediaset, Buzzi e Telecom, anche per via del rimborso anticipato del bond ibrido. Oggi, e vorrei chiudere con Ceo Condina, invece un po' in recupero tutte le banche popolari, Ceo. Sì, in particolare BPM, su cui è emerso in un'intervista un possibile interesse di Palladio, qui come sappiamo Bonomi è uscito e quindi c'è bisogno insomma di nuovi investitori che possano sostenere la banca, e come noto non è in una situazione idilliaca. Per quanto riguarda invece il Banco Popolare, perde l'1,7%, pesano ancora insomma quelle che sono state la scia di questo nuovo aumento di capitale necessario per rafforzare patrimonialmente il gruppo. Ecco, tra l'altro devo dire quasi tutte le banche popolari, ma non il Banco Popolare, che anche oggi ha perso l'1,7%, tra chi ha ceduto oltre ai citati anche Salvatore Ferragamo sulla scia del lusso, debole oggi, meno 2,90%, Prismian meno 2,5%, l'ex Pirelli Cavi, Autogrill meno 1,90%, Exor meno 1,90 anch'esso, la controllante di Fiat, e A2A meno 1,80%, Enel meno 1,60% come Campari e CNH Industrial, quindi sempre gruppo Fiat, migliore e peggiore in assoluto. Gruppo Green Power meno 8,14%, e invece migliore Bastoggi più 19,40%, grazie a Ceo Condina, Radio Colli sulle 24 ore. Occupiamoci adesso dell'altra notizia del giorno, appunto, quota della Banca d'Italia, dall'altro lato Electrolux, ma anche e soprattutto Fiat. Il mercato ha punito il titolo meno 4,11%, peggior titolo dell'S&P MIB. We'll be right back. Eh sì, niente resta per sempre, nemmeno il nome della Fiat, Brian Ferry. Non mi fate la battuta, Brian Ferry di Fkasen ne sa qualcosa. La Fiat Chrysler Automobiles è il nuovo nome del gruppo, è formato dalle due case, appunto l'acronimo è FK, sede legale in Olanda, quella fiscale in Gran Bretagna, titolo quotato a Milano e New York. Dice John Elkann, presidente della Fiat, è un nuovo capitolo nella storia della Fiat, il nuovo gruppo sarà al settimo posto tra i costruttori d'auto al mondo con 4.400.000 auto vendute, 158 stabilimenti, 215.000 dipendenti, 16 marchi o brand come si chiamano. Il gruppo poi ha accordi commerciali con 140 paesi, tra i partner appunto Tata in India, GAC in Cina e Mazda in Giappone. Oggi ci sono anche i conti Fiat, l'utile netto sale a 1,9 miliardi del gruppo Fiat Chrysler, l'utile nella gestione ordinaria è a 3,4 miliardi, l'indebitamento cala a 6,6 miliardi a fine 2013, la liquidità è di 22,7 miliardi sempre nel 2013, ma non sarà distribuito il dividendo, e poi nel 2014 aumenterà il debito per 9,8/10 miliardi di euro. I ricavi sono 87 miliardi, bene la fascia premium delle auto, in calo Europa e America Latina, e invece bene l'America del Nord e l'Asia. E sentiamo un passaggio della conference call di Sergio Marchionne proprio sul dove arriverà la quotazione, quindi sarà quotata a Milano ma anche a New York, il nuovo marchio, il nuovo gruppo. The conclusion of a saga that started back in 2009. All of you know that on January 1st we announced the acquisition of the remaining piece of equity that was sitting with the Viva, and we were able to close the transaction mid-month. We paid 3.65 billion for this for this acquisition. We completed a project that saw its beginning back in June of 2009, and on which we have worked pretty diligently over the last 4.5 years to try and bring together these two car companies. Fiat Chrysler Automobiles will be incorporated in the Netherlands. It will be tax resident in the UK. It will have listings in both New York and in Milan. Appunto, quotata sia a Milano che a New York, sede fiscale del UK, e poi invece la sede legale in Olanda. Chi non avesse capito, Marchionne, consiglio il corso BBC English Go, il corso di inglese multimediale che in sole 24 ore regala in allegato. Ha visto come mi sono agganciato la cosa? 30 unità e in omaggio il libro e il CD. Lo dico perché, a parte gli scherzi, l'inglese ancora zoppica, diciamo, in Italia. Andrea Malan del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, non sei qui per il corso d'inglese, chiaramente, ma per l'operazione Fiat. Dici due cose in particolar modo. Molte critiche sulla sede legale però e fiscale. Ho fatto notare che non è un caso raro, anzi. Ma soprattutto io vorrei sapere una cosa, al di là della sede fiscale e quant'altro e del marchio, ma il famoso piano Fabbrica Italia resta in piedi? Io questo mica l'ho capito, cioè i famosi 20 miliardi di euro, un massiccio piano di investimenti da fare entro 2014, c'è o non c'è? Il piano Fabbrica Italia direi che è morto da parecchio tempo, sì, Marchionne si arrabbia a sentirne parlare. Ma è lui che ha lanciato, è poco da arrabbiarsi. Possiamo dire che i numeri degli investimenti di quest'anno sono 7 miliardi e mezzo tra Fiat e Chrysler, e rispetto all'anno prima c'è un aumento di quelli di Fiat e un calo di quelli Chrysler. Ricordiamo però che Fiat sta costruendo in Brasile una seconda fabbrica a Pernambuco che costerà parecchi soldi e che assorbe quindi una buona parte di questi investimenti. È in corso, ricordiamo, anche in parallelo lo sviluppo e il miglioramento della fabbrica di Melfi, da cui dovrebbe uscire a fine anno la nuova 500 e la piccola Jeep. Quindi questi sono i due grossi investimenti di Fiat. Per l'anno prossimo è previsto un lieve aumento a 8 miliardi come investimenti sempre complessivi tra Fiat e Chrysler, e anche se la cifra è stata un po' ritoccata al ribasso rispetto ai numeri che erano stati dati un anno fa, sugli investimenti Marchionne, sappiamo, è sempre molto prudente, anche perché, come hai ricordato, un debito che dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 miliardi di euro non è da poco. Se ne è parlato nella conference call con gli analisti, gli è stato chiesto di eventuali aumenti di capitale, prestito convertendo eccetera, lui ha ribadito in sostanza che aumenti di capitale secchi non se ne parla, possibile un prestito convertendo, possibili anche altre forme di monetizzazione, qualcuno ha ventilato la monetizzazione anche di una parte della quota Ferrari, però sono cose che verranno decise, diciamo, come data entro quest'anno, attorno alla data o appena prima della quotazione a Wall Street, per potersi presentare poi agli investitori americani con un piano complessivo dal punto di vista finanziario. Toglimi un'altra curiosità, al di là delle battute che mi porto dietro dall'inizio programma sulla FCA, ma FCA o FCA sarà solo l'acronimo complessivo, cioè poi i singoli marchi resteranno, giusto? Cioè uno leggerà Fiat sulle auto. Non vedremo la FCA su nessun automobile. Beh, non dire così, dai. Però dico, saranno i vari marchi Fiat, Alfa Romeo, Chrysler e quant'altro, giusto? Assolutamente, possiamo ricordare il caso di GM che ha un marchio GM, ma certo, che non è su nessun automobile. Vabbè, e sul fatto della sede fiscale in Gran Bretagna e legale in Olanda, diciamo, ma questo... guarda, il discorso della sede, faccio due osservazioni. La prima è che manca ancora un tassello importante, che è dove sarà di fatto il quartier generale. Sì. Sergio Marchionne ha sempre detto che il quartier generale è sull'aereo, dove lui si sposta da un posto all'altro. Diciamo che è difficile per un gruppo, per quanto globalizzato, non avere un quartier generale in un determinato posto. Tutti i concorrenti di Fiat ce l'hanno al mondo, anche quelli più globalizzati. Quindi prima o poi è un problema che andrà risolto, e sappiamo come la pensa Marchionne, cioè che l'attrazione fatale, si potrebbe dire, del mercato americano è troppo forte. Però per ora Fiat prende tempo, giustamente anche dal suo punto di vista. Per quanto riguarda il discorso invece della sede legale e fiscale, la scelta, che è la stessa che è stata fatta per CNH Industrial, in sostanza è volta a massimizzare i vantaggi fiscali e di governance per l'azionista di controllo, che è Exor, nel senso che il vantaggio della sede fiscale in Gran Bretagna è non tanto sui dividendi, sulla tassazione degli utili, quanto dei dividendi che poi verranno pagati diciamo verso la società che sta di sopra nella catena di controllo. E l'Olanda permette di adottare il meccanismo dei diritti di voto doppi per gli azionisti stabili, che in sostanza permetterebbe quindi a Exor in un tempo non troppo lontano di avere un peso sui diritti di voto superiore al 30% circa del capitale che è attualmente in Fiat S.p.A. Questo era lo spot del 2010, se non ricordo male, in cui veniva annunciato il progetto Fabbrica Italia. Marchionne, su questo però un po' di autocritica si può anche fare ogni tanto, noi l'abbiamo sempre difesa, insomma, 20 miliardi, da 20 miliardi a briciole, insomma, è scomparso il progetto Fabbrica Italia, e vabbè, si fa per dire. Allora, nel frattempo vi do anche qualche aggiornamento sull'Electrolux, perché sempre di politica industriale stiamo parlando. Non molto soddisfatto il ministro Zanonato dopo l'incontro con l'azienda. L'azienda non ci ha convinto, si apre un tavolo negoziale, faremo un incontro anche col premier Letta. Mentre più soddisfatti i governatori del Friuli Deborah Serracchiani e quello del Veneto Zaia, dicono siamo soddisfatti, oggi si è comunque fatto un passo in avanti. Zanonato invece lancia l'allarme sul fatto che Electrolux non abbia presentato alcuna proposta sullo stabilimento di Porcia, quello in Friuli, 1200 persone più 2000 nell'indotto. La discussione è stata una discussione molto serrata, si è manifestata con grande forza da parte di tutti gli enti pubblici istituzionali, cioè le regioni e il governo, la volontà di salvaguardare nella sua integrità questa azienda che è strategica per il nostro paese. Faremo anche su questo un incontro con il presidente Letta, di cui mi occupo direttamente su questo, e l'obiettivo è garantire l'occupazione, garantire il reddito dei lavoratori, garantire gli insediamenti produttivi. Siccome su un punto c'è un elemento di perplessità da parte nostra e di forte preoccupazione, questo punto in particolare si chiama Porcia, poi ci sono altri problemi e altre preoccupazioni, ma il principale elemento di preoccupazione per Porcia, abbiamo chiarito che non esiste soluzione Electrolux senza che si salvi e continui a sviluppare la propria attività produttiva lo stabilimento di Porcia, che è il più grosso e più importante, dove ci sono anche la sede, la direzione, tutta una serie di altre presenze nel campo della ricerca e della e dello sviluppo industriale di questa azienda. Questa è stata la conclusione del tavolo, e nel fatto che c'è la disponibilità di affrontare tutte le questioni da parte dell'azienda e da parte del sindacato. Professor Giuseppe Berta, che insegna storia economica all'Università Bocconi di Milano, buonasera. Buonasera. Lei è anche autore del libro Fiat Chrysler e la deriva dell'Italia industriale. Allora, si tengono assieme i casi Fiat da un lato, sempre più americana, un po' anche olandese, inglese, Electrolux che mette in confronto lo stabilimento polacco con quello di Porcia? Sì, secondo me sì, perché allora se guardo alla realtà Electrolux vedo un'Italia, un pezzo di Italia industriale che è in competizione per prodotti che possono essere fabbricati a costi molto più contenuti altrove, e non stiamo parlando dell'Oriente, ma stiamo parlando di una realtà non lontana da casa nostra, stiamo parlando della Polonia, dove anche esiste, ricordiamolo, uno stabilimento importante di quello che è il gruppo Fiat, proprio per la produzione automobilistica. Allora è chiaro che se noi restiamo su queste fasce di produzione subiamo inevitabilmente la concorrenza della Polonia da un lato, della Serbia dall'altro. Qui bisognava avere più coraggio anni fa e fare quello che questo paese non ha fatto, cioè fare un grande investimento per elevare complessivamente imprese e politica industriale, elevare la qualità della nostra produzione, cioè produrre dei beni che non possono essere fabbricati facilmente da altre parti a un costo minore. Però a giudicare dai dati del nostro export, molte imprese medie, grandi, ma anche piccole, si sono già mosse in quella fase. Si sono mosse, e io spero, da quanto si diceva prima, ascoltavo la conversazione precedente, che sia questo anche il segno migliore con cui nasce la nuova Fiat Chrysler, diciamo, perché l'idea è di fabbricare in Italia soprattutto vetture di gamma più alta destinate ai mercati mondiali, appunto quelle con marchio Maserati e Alfa Romeo, che dovranno costituire un pool, un nucleo unico, e questo permette così di evitare, no, la chiusura di impianti storici come quello di Mirafiori, e perciò di salvaguardare la possibilità di una produzione automobilistica in Italia, altrimenti resta affidata a poche cose, perché non possiamo pensare che Pomigliano, la Panda, e nelle nuove versioni che verranno fatte, possa diventare la Panda o Melfi possono diventare le ultime fabbriche di automobili in Italia. Dobbiamo assolutamente intervenire per elevare la qualità del prodotto. Questo l'ho capito. Due cose volevo sapere ancora nei pochi minuti che restano. Uno, secondo lei la politica dovrebbe o no intervenire, perché stiamo parlando di soggetti privati? Certo, dovrebbe intervenire. Quando parliamo dei successi, allora diciamo, parliamo ancora del sistema dell'auto. Lei ha in testa i tre gruppi che sono i maggiori: Toyota, inseguita da General Motors e Volkswagen, no? E poi c'è una pattuglia, diciamo così, di inseguitori, no? Che va da Ford a Renault, e naturalmente a Renault-Nissan, e naturalmente da Fiat Chrysler e Hyundai Kia. Se io dovessi dire qual è il più forte di questi gruppi, io dico che Hyundai Kia, che fa un'aggressiva politica da anni, sostenuta fortemente dalla volontà industrialista dello Stato coreano. Lei pensi, hanno fatto due impianti per la produzione automobilistica in Slovacchia, e sapendo che ci perdono per anni. Questi perderanno sicuramente per qualche anno, ma alla fine riusciranno, vedrà, a imporsi, come hanno fatto la stessa cosa sul mercato nordamericano. Hyundai Kia si è imposta in questo modo, con investimenti molto coraggiosi e determinati, con il sostegno dello Stato, non c'è dubbio, quello è uno Stato sviluppista, e noi non possiamo competere con questi. Basta che il sostegno dello Stato non sia aiuti di Stato, perché la Fiat ne ha già ricevuti tanti. Ultima cosa, in 20 secondi, anche 10, Ma lei si fida di Marchionne dopo che il progetto Fabbrica Italia in realtà è stato abbandonato in questo modo? Ma io devo dire che Marchionne ci prova, secondo me, adesso okay. Ci proverà. È una scommessa molto difficile, perché fare il pollo dell'alto di gamma significa andare a concorrere con BMW, Audi, certo. Daimler, cioè Toyota, cioè i marchi fortissimi. Bisogna trovare un elemento di specificità che non può essere soltanto l'immagine, cioè dire l'immagine, il design, la tradizione italiana, beh, questo l'immagine è un contorno, ma devi offrire un vantaggio chiaro. Competitivo. Quale può essere questo vantaggio competitivo, secondo me? Il motore. Cioè, Marchionne ha detto una cosa giusta. Sì. Ha detto, noi abbiamo sbagliato a montare sulle macchine Alfa dei motori Fiat, perché la gente subito diffida di questo, vuole un prodotto diverso. Il marchio indica un prodotto più aggressivo, chiaro. Più vivace, più sportivo. Quindi la risposta è sì, lei si fida, grazie anche a Giuseppe Berta che insegna storia economica alla Bocconi di Milano. Allora, un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Torneremo domani alle 17 a raccontare la giornata economica finanziaria. Ha ragione Giampiero, operaio della fabbrica di Pomezia. Ha ragione José González e Tiesco, la nuova base. Tiesto, domani in diretta con Sebastiano Barisoni. Buona serata. Radio 24. La passione si sente.